L'appuntamento che è fissato per la mattinata del 30 novembre al Centro Saffi in via Berti è l'evento che abbiamo promosso come diverse associazioni impegnate sul terreno del potenziamento del trasporto pubblico e sostenibile. Abbiamo la presenza di tre esperti che sono il professor Balzani dell'Università di Bologna, che cercherà di delineare, mettere in rapporto la situazione di emergenza climatica con le necessità di cambiamento del trasporto individuale e anche, credo, collettivo, perché il problema dell'adeguamento e delle emissioni riguarda anche i mezzi pubblici, no? Se parliamo di tram è un conto, ma se parliamo dei bus, dobbiamo, in questo senso, abbiamo ancora molti mezzi che funzionano e circolano alimentati a gasolio. Poi abbiamo anche due esperti, che sono Maria Rosa Vittadini e Piero Cavalcoli, che cercheranno di entrare nel merito di quelli che sono i piani che da un lato la città metropolitana, se parliamo del PUMS, e la regione, il PRIT, si stanno dotando per appunto pianificare gli investimenti che riguardano il trasporto. Quindi in questo senso parliamo di trasporto pubblico ma anche di trasporto privato, quindi c'è un problema anche delle infrastrutture. Quindi noi chiediamo sostanzialmente che sia coerenti con quello che è stato scritto, se ci va bene ovviamente, perché alcuni punti ci riconosciamo, e vogliamo appunto che gli investimenti si invertano nei rapporti, quindi potenziando il trasporto ecosostenibile e riducendo fortemente gli investimenti che riguardano la mobilità su gomma. Quindi è un problema che riguarda l'area di Bologna ma anche la regione. Quindi chiediamo in questo senso uno sforzo per essere coerenti con le dichiarazioni che sono state fatte di emergenza climatica, che richiedono, ripeto, misure a stretto giro, coerenti, puntuali, perché altrimenti gli obiettivi non si possono raggiungere. Quindi se parliamo di una riduzione del 40% delle emissioni di CO2 nel 2030, bisogna non aspettare il 2029, siamo già ormai nel 2020, e quindi dai piani si deve passare alle realizzazioni. In questo senso anche gli investimenti devono essere coerenti. Fondamentalmente ne parleremo, ci sarà anche chiaramente l'esposizione dei nostri punti nell'introduzione alla serie di interventi che ci saranno. Cosa ha reso possibile la convergenza di associazioni diverse con finalità effettivamente? Beh, credo che in questo senso abbia il fatto di esserci ritrovati d'accordo su una serie di osservazioni che riguardavano l'articolazione del piano urbano della mobilità sostenibile, la necessità, ripeto, di fare versante comune su quelli che sono i punti forti emergenti che riguardano il trasporto pubblico. Quindi qui abbiamo trovato un collante comune. Poi chiaramente su alcune questioni posso dire magari non siamo d'accordo a latere, però ecco, abbiamo cercato di trovare l'unità. Sindacale, si fa a livello, se si trovano dei punti comuni, credo che sia importante essere vigili, attenti insieme, non un'associazione singola.